2024 di Enrico Pagliarini. Ed eccoci di nuovo insieme, benvenuti o bentornati. Questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Potete raggiungermi scrivendo a 2024@radio24.it oppure anche attraverso Facebook oppure Twitter. Alcuni ascoltatori che hanno utilizzato questi canali hanno fatto una richiesta e cercheremo di accontentarli la prossima settimana. La richiesta è: parlate, occupatevi di SpaceX, dei risultati ottenuti dall'azienda fondata, voluta, ideata, pensata da Elon Musk, ma soprattutto dei progetti futuri. Allora, i risultati sono eccezionali perché anche questa settimana ci sono stati dei lanci di razzi, in modo particolare di SpaceX e dei Falcon 9, ed è veramente incredibile sempre vedere questo primo stadio di questo razzo essere riutilizzato, perché sapete che questo primo stadio rientra in atmosfera. Questa settimana appunto sono stati lanciati alcuni razzi con degli stadi già utilizzati che vengono riempiti di nuovo carburante e possono ripartire, quindi questo abbassa tantissimo il costo di un lancio spaziale. Risultati eccezionali, ma progetti per alcuni non praticabili nel breve periodo. Pensate che Elon Musk dice: entro il 2024 manderemo delle persone raggiungeremo Marte. Allora, comunque ne parleremo la prossima settimana, ce ne occuperemo, perché ci sono molte cose da dire, alcune considerazioni da fare che riguardano tutta la industria aerospaziale. Tra l'altro, a proposito di industria spaziale, è stato lanciato dall'Unione Europea un nuovo Sentinel, una serie di satelliti per l'osservazione della Terra. La realtà virtuale decolla, non decolla, non decolla, non decolla, al contrario invece di quello che sta facendo SpaceX. Allora, forse perché tutto il sistema per offrire uno spettacolo appagante, cioè un PC molto potente, un visore di alta qualità, tutto questo sistema costa ancora troppo. È vero che ci sono delle soluzioni più semplici e più economiche con visori di cartone addirittura, dove devi infilare lo smartphone per immergerti in questo mondo virtuale, ma il risultato non è un granché. Insomma, per godere di un grande spettacolo in realtà virtuale bisogna avere una serie di strumenti che costano ancora un sacco di soldi. Però, consapevoli di questo problema, Facebook, che ricordo ha speso un sacco di soldi per Oculus, che è un'azienda che forse è stata la prima a credere in questa tecnologia, allora Facebook tenta la strada del prezzo più accessibile, perché finora le vendite del visore di Oculus sono state deludenti. Allora, la conferenza Oculus Connect, che c'è stata questa settimana a San Jose in California, è stato annunciato l'arrivo di un nuovo prodotto che si chiama Oculus Go. È un visore da $199, lo vedremo nei prossimi mesi, a partire dall'inizio del 2018. È un visore indipendente, cioè non ha bisogno né di un PC e nemmeno di uno smartphone da infilare dentro. Insomma, un prezzo tutto sommato, vedendo i prezzi attuali di questo tipo di prodotti, tutto sommato abbastanza abbordabile. Altro annuncio è il taglio del prezzo di Oculus Rift, che è il prodotto di punta di Facebook, che passa a $399 negli Stati Uniti e sarà €449 in Europa. Comunque è vero che Facebook e Zuckerberg, il fondatore, crede molto in questa tecnologia, ma finora tutti i programmi non sono stati rispettati. Insomma, come dicevo poco fa, le vendite sono state abbastanza deludenti e c'è chi dice che la realtà virtuale sarà forse molto interessante in ambito business, in alcuni ambiti. Magari ti faccio vedere come sarà la tua casa una volta arredata, magari ti faccio vedere come è un'automobile che non ho pronta nel mio showroom, nel mio negozio, oppure posso fare formazione per operai che devono andare a operare in un luogo magari pericoloso, e prima lo faccio in realtà virtuale. Ecco, per questo tipo di applicazioni potrebbe esserci una chance, una modalità di utilizzo, ma per il mondo dell'intrattenimento ancora questo sistema è un po' claudicante, potremmo dire. Poi sicuramente qualcosa succederà, ma potrebbe fare anche la fine del 3D. stiamo parlando di due cose effettivamente diverse. Altro tema che comunque è collegato è quello della realtà aumentata. Ci sono alcuni esperti che dicono invece sì, sulla realtà aumentata si potranno fare un sacco di applicazioni. Anche Tim Cook, il capo di Apple, ha recentemente detto: io credo molto di più nella realtà aumentata più che nella realtà virtuale. Vedremo che cosa accadrà nei prossimi mesi, anche quando arriveranno questi prodotti. Adesso alcune notizie in breve selezionate nelle nostre Digital News. Digital News. La prima notizia riguarda sempre Facebook, perché ha lanciato in questa settimana, solo negli Stati Uniti per il momento, ma è interessante come tendenza, ha lanciato un servizio all'interno dell'applicazione di consegna di cibo a domicilio. Sapete che in tutto il mondo, in tutte le città, c'è un boom di applicazioni, di servizi che vi connettono con i ristoranti per la consegna a domicilio del cibo, e in questo settore si è inserita anche Facebook. La cosa è molto facile, molto semplice, perché Facebook ha già i clienti, ha già gli utenti, ne ha milioni, e quindi è molto semplice aggiungere nuovi servizi all'applicazione. Le altre notizie riguardano tre startup italiane. La prima è Competitor, con due O. Competitor, che ha ricevuto altri 469.000 euro come aumento di capitale. Come sempre ricordo che quando parliamo di startup italiane, purtroppo quando parliamo di finanziamenti parliamo di 1.000 euro, raramente di milioni di euro, anche se in alcuni casi servirebbero per essere competitivi in tutto il mondo. Comunque Competitor, che fa parte del portafoglio di H-Farm, ha sviluppato un software di intelligenza artificiale per monitorare i prezzi online dei concorrenti e anche i prezzi dei propri prodotti, proprio nel senso di una marca, di un'azienda, venduti in tutto il mondo, così da poter facilmente individuare chi viola le politiche di prezzo concordate. Ci sono vari software e vari servizi in questo ambito, nel monitoraggio dei prezzi. Ci sono anche alcune applicazioni consumer per vedere, per fare confronti dei prezzi, oppure per tenere tracciato il prezzo di un tale prodotto. Un'altra notizia riguarda Musement, che è una startup che abbiamo anche intervistato a 2024, un servizio nato a Milano 4 anni fa, che permette di prenotare itinerari e comprare biglietti per visite in attrazioni turistiche, musei, concerti, eccetera, eccetera. Allora, Musement ha annunciato di avere comprato l'olandese Triposo, una piattaforma di contenuti legati ai viaggi, la cui applicazione conta già più di 10 milioni di download. Musement, lo ricordiamo, perché questa è invece una startup che è stata finanziata molto molto bene, finora ha ricevuto 15 milioni di euro. Parliamo di Qomi, con la Q, una startup fondata nel 2015 specializzata nell'invio di scatole con tutti gli ingredienti per preparare un pranzo o una cena a casa. Allora, Qomi ha annunciato un nuovo finanziamento da 600.000 euro dopo i 250.000 raccolti nei primi 18 mesi di vita. Ricordiamo che Qomi dichiara di avere circa 2.500 clienti. Più tardi parleremo di intelligenza artificiale, poi ho anche un altro paio di notizie che riguardano lo scooter e il car sharing, quindi la condivisione di scooter e di automobili, e anche alcune considerazioni su alcune notizie che sono arrivate in settimana su blockchain. Adesso moltissimi parlano di blockchain, a volte anche senza conoscere molto bene l'argomento, però va molto di moda. Blockchain, ricordiamo che è il meccanismo matematico che sta alla base dei Bitcoin. Bitcoin, tra l'altro, che hanno superato nuovamente quota $5.000, e gli investitori in criptovalute se ne fregano altamente di quello che stanno decidendo le autorità in Cina e in altre parti del mondo per cercare di frenare la crescita e la diffusione della criptomoneta, ma non so come possano fare. se non sono riusciti a bloccare, e difficilmente riusciranno a bloccare, la pirateria online, molto difficilmente si riuscirà a contenere il fenomeno delle criptomonete, che infatti si espande, ce ne sono tipo 1500 di criptomonete nel mondo e Bitcoin continuano a salire di valore. Chissà se avranno ragione quelli che prevedono un crollo di questa criptomoneta, però Bitcoin è la più famosa, la più nota, ma ce ne sono tante tante altre. Parliamo di commercio elettronico in Italia. Questa settimana sono stati diffusi nuovi dati, un aggiornamento di dati, visto che tutto nasce grazie alla tecnologia. Ne parliamo 2024 con Riccardo Mangiaracina, che è il responsabile scientifico dell'osservatorio B2C, quindi del commercio elettronico al consumatore finale del Politecnico di Milano. Benvenuto, meglio, bentornato a 2024. Grazie. Oltre al Politecnico di Milano, questo osservatorio è curato anche da Netcom, che è il consorzio del commercio elettronico italiano. La cosa che continua a sorprenderci sono questi numeri. È tutto normale? Cioè, vi aspettavate anche voi che per l'ennesima, perché da quanti anni è che questo mercato cresce a doppia cifra? L'e-commerce cresce sostanzialmente a doppia cifra dal momento della sua nascita a fine anni 90, non ha mai smesso di crescere. All'inizio anzi i tassi erano molto più elevati perché parlavamo di volumi decisamente più piccoli e quindi avevamo crescite anno su anno anche del 70-80%, e ormai da una decina d'anni che invece cresce a tassi compresi tra il 15-20%, quindi diciamo che questa crescita non ci sorprende. Quest'anno in particolare, nel 2017, ci aspettiamo una crescita del 17% rispetto al 2016, per un valore complessivo dell'e-commerce in Italia di 23,6 miliardi di euro, quindi un valore che inizia a essere importante, ma è un valore che tutto sommato, e qui voglio essere un po' provocatorio, non ci soddisfa fino in fondo. Molto bene, mi piacciono quelli che provocano con i numeri, soprattutto supportati dai numeri. Diciamo, poi ti chiedo perché non vi soddisfa, diciamo a supporto di questa tesi, che ancora oggi il commercio elettronico sul totale del commercio, quindi fatto 100, il numero di prodotti che vengono venduti al consumatore finale attraverso negozi, supermercati, eccetera eccetera, vale il 5,7%. Esatto. Quindi l'e-commerce pesa molto poco. Esatto, esattamente questo poi è il numero che non ci soddisfa, perché finché parliamo di miliardi di euro sembra tutto grande, quando arriviamo a misurare invece la reale diffusione del fenomeno attraverso il tasso di penetrazione che hai appena dato, ecco che rimaniamo un po' sorpresi. Perché sorpresi? Perché se ci confrontiamo con i principali mercati stranieri paragonabili al nostro per dimensione e cultura, come la Francia, la Germania, UK, ecco che lì troviamo dei tassi di penetrazione molto molto più alti. Per capirci, in UK il tasso di penetrazione è vicino al 20%, stiamo dicendo tre volte e mezzo tanto quello dell'Italia. Quindi un prodotto o servizio, poi discriminiamo anche tra prodotto e servizio, uno su cinque viene venduto online in Gran Bretagna. Esattamente, esattamente così. In Italia invece questo avviene solo in alcuni settori. Al momento i settori merceologici con la più alta penetrazione sono il turismo, dove grazie soprattutto alla vendita di biglietti aerei e ferroviari la penetrazione ha superato il 30%, quindi stiamo dicendo che lì almeno un biglietto su tre viene venduto online. Mi viene da sorridere perché io non riesco a capire chi compra ancora i biglietti alla vecchia maniera, però quindi non e-commerce, per me l'e-commerce in quel caso è dall'app dello smartphone. Esattamente, però. E anche lo smartphone lì gioca un ruolo molto molto importante, sì. Ma di questo magari parliamo dopo. Il settore di prodotto dove invece la penetrazione è più alta è l'informatica ed elettronica di consumo. Siamo arrivati al 22%, stiamo dicendo che un oggetto su quattro più o meno viene acquistato online, e devo dire che questo tasso di penetrazione inizia a essere un tasso di penetrazione molto molto importante. E peraltro non si è arrestata la crescita in questo settore, nel senso che anche nel 2017 l'informatica ed elettronica di consumo venduta online, quindi su internet, cresce di quasi il 30% rispetto all'anno precedente. E questo vale per tutti i prodotti. I prodotti, la vendita di prodotti o gli acquisti, meglio, di prodotti da parte dei consumatori italiani online crescono a un tasso che è molto molto interessante, vicino al 30% rispetto all'anno precedente. I servizi invece crescono a un tasso molto più basso, diciamo più 7% rispetto all'anno prima. Questo perché? Perché i servizi stanno andando male? No, perché i servizi si sono sviluppati prima, il turismo si è già sviluppato prima. Io ho fatto l'esempio dei biglietti per i trasporti, ma abbiamo anche la prenotazione di camera d'albergo, abbiamo anche le assicurazioni, abbiamo anche cioè, i biglietti per eventi. Da più tempo che si comprano online queste cose. Esatto, perché sostanzialmente, lasciatemi dire, più facili da dematerializzare. Certo, sì, sì. E quindi anche più facili in qualche modo da acquistare. Non c'è una consegna di mezzo, banalmente, sì, non sì. c'è una logistica non di c'è, mezzo. Esatto, non c'è la logistica, se devo... esatto. E quindi questo porta a una facilità maggiore di vendita online. Certo, quindi negli ultimi anni ci stai dicendo che la logistica, tutto il settore della logistica e anche gli operatori si sono un po' più svegliati, perché i consumatori forse si erano già svegliati tempo fa e questo ha portato un beneficio a tutta la catena. Allora, assolutamente sì, io sono proprio del parere che i consumatori sono sempre stati svegli da un certo punto di vista. Quello che è mancato in molti casi all'e-commerce nel nostro paese è stata l'offerta, sono stati gli operatori, i venditori online che non sono arrivati in tempo, non hanno creduto da subito nel canale online, cosa che invece è avvenuta negli altri paesi, per esempio in Inghilterra, in UK, sì. dove oggi poi siamo arrivati a tassi di penetrazione appunto molto più alti. Certo. Oggi, finalmente... quest'offerta è arrivata, sta arrivando, si sta rinforzando ulteriormente in tanti settori merceologici anche di prodotto, e questo sta dando i suoi frutti perché i prodotti crescono e quest'anno per la prima volta il valore degli acquisti in tutti quei settori di prodotto ha superato il valore degli acquisti in tutti i settori di servizi. Quindi stiamo iniziando ad avere un comportamento di acquisto come italiani, abilitato dalla giusta offerta, evidentemente, molto più simile a quello che riscontriamo nei principali mercati internazionali, dove i prodotti hanno un peso molto più significativo rispetto ai servizi, perché se guardiamo come consumatori, sia online che offline, al nostro paniere di spesa, io penso che quasi tutti spendiamo in un anno tendenzialmente di più in prodotti, è tipicamente cibo e abbigliamento, esatto, tra sì, i due sì. settori più gettonati evidentemente, e rispetto ai servizi. Chiaro, sì sì, a meno che uno sia un viaggiatore seriale o comunque uno che consuma, che ne so, film o altro genere di cose. Per quale motivo, tu dicevi all'inizio, non siamo soddisfatti? Voi siete, come dice la parola, un osservatorio, e così come i giornalisti, voi osservate e riferite quello che sta succedendo sul mercato. Però perché dite che non siete soddisfatti? Uno potrebbe domandare, vabbè, ma che problema c'è a continuare a vendere la merce offline, quindi nel negozio fisico, rispetto al negozio online? Certo, non l'ha prescritto il dottore che bisogna necessariamente vendere online, l'importante è vendere da un certo punto di vista e mantenere alti i consumi. Ma allora, non siamo soddisfatti, come dicevo prima, se ci confrontiamo con gli altri paesi e siamo ancora indietro sull'online rispetto ad altri settori, come per esempio il cibo. Il cibo oggi online è poco venduto e ho la sensazione però che gli operatori specializzati dell'e-commerce, quelle che chiamiamo le grandi .com, cioè quegli operatori nati su internet per vendere su internet in qualche modo, decidono di spingere sull'acceleratore per vendere cibo, ecco che probabilmente si prenderanno una buona fetta di mercato a discapito degli operatori più tradizionali, che sono quelli che oggi hanno i supermercati. Quindi tu stai dicendo i consumatori, o comunque una parte di consumatori, o una parte di tempo di noi consumatori la dedichiamo all'acquisto online. Quindi c'è la richiesta, la domanda del mercato esiste. Voi dite non siamo soddisfatti perché si perdono delle opportunità di business. Assolutamente sì, si perdono le opportunità di business perché c'è un elemento di servizio molto importante nel commercio elettronico che in un settore come quello del cibo, della spesa al supermercato per esempio, è molto apprezzato dal cliente che lo richiederebbe, ma oggi non ha ancora l'opportunità di acquistare online. E pensiamo che se un cliente avesse la possibilità di acquistare sia online sia offline, complessivamente acquisterebbe di più, perché ha più occasioni di acquisto sì, sì. che troverebbe soddisfatte con molta più facilità. Sì, sì, comunque uno sposta i consumi. Io recentemente ho acquistato della pasta da un produttore locale di pasta che fa tutto, semina il frumento eccetera eccetera e poi macina e fa la pasta, cosa che non avrei potuto fare se non esistesse il commercio elettronico, a meno che prenda l'automobile e faccia 400 km cosa quindi... che non avresti fatto probabilmente sì, perché sì. grazie al commercio elettronico hai tipicamente accesso a una gamma di prodotti che è molto molto più ampia a quella che riesci a trovare su un unico punto vendita fisico. Lo smartphone molto importante, lo ripetiamo e lo ribadiamo, e se uno guarda i comportamenti delle persone che stanno attorno a noi capisce che uno, c'è chi dice 80 volte al giorno, c'è chi dice 100 volte, 150 volte al giorno mettiamo le dita e gli occhi sullo smartphone, quindi è un canale da tenere in considerazione. Purtroppo poi all'atto pratico vediamo che ci sono ancora un sacco di servizi che non rispondono a questo trend. Che cosa state osservando voi per quanto riguarda il commercio elettronico? Noi stiamo riscontrando una crescita molto molto importante degli acquisti online attraverso lo smartphone. Quest'anno crescono del 65% rispetto all'anno prima e oggi complessivamente un acquisto su quattro viene fatto sullo smartphone. Se aggiungiamo il tablet, che è un altro dispositivo ragionevolmente mobile, anche se poi il tablet è tipicamente utilizzato dentro le mura domestiche, arriviamo al 33%, un acquisto su tre viene fatto attraverso smartphone o tablet. Quindi stanno giocando un ruolo molto molto importante. Ma perché? Perché lo smartphone è sempre con noi, riempie tutti i nostri tempi morti e ci dà una quantità di ulteriori occasioni di acquisto che nessun altro dispositivo ci può dare. Ed è con noi anche quando visitiamo un negozio, il che vuol dire che dentro un negozio, se stiamo guardando un prodotto che ci piace, lo vogliamo acquistare, non siamo sicuri di acquistarlo al prezzo migliore in quel momento lì e in quel negozio, ecco che parte subito la ricerca per acquistarlo online e si dà spazio a quel fenomeno che viene chiamato showrooming in qualche modo. Certo, e che tocca anche quella necessità o evoluzione che è la multicanalità, omnicanalità, non so come meglio chiamarla. Ma adesso quelli bravi la chiamano omnicanalità. Omnicanalità. Che... Ma detto questo, il concetto è sempre lo stesso. Bisogna arrivare a un utilizzo dei diversi canali, che sia lo store fisico, il negozio fisico, che sia il web attraverso un computer, un PC, che sia lo smartphone grazie alle app, a dare al cliente delle possibilità di acquisto e soprattutto dare al cliente diverse funzionalità lungo tutto il percorso che legano l'azienda al cliente stesso, di modo che sia il cliente a decidere cosa fare e dove farlo secondo le sue comodità. Senti, voi avete sottolineato un settore secondo me interessante, che è quello dei ricambi d'auto. Allora, fino a pochi anni fa, prima del commercio elettronico, comunque anche diciamo prima dell'evoluzione del commercio elettronico, questo tipo di prodotti, così come tanti altri prodotti, passavano necessariamente da un distributore ed erano, ma lo sono ancora, un prodotto tipicamente B2B. Lo pneumatico, perché si dovrebbe così dire, la gomma dell'automobile non viene venduta al consumatore finale, anche perché poi non so che cosa farmene. Invece questo fenomeno comincia a diventare, i più esperti sanno benissimo che è da tempo che si vendono gomme online, però usiamo questo come esempio di un trend che esiste. Allora, innanzitutto una considerazione sul trend e poi facci capire come si sta trasformando anche il mercato. Il settore dei ricambi auto è uno dei settori che ci sta dando più soddisfazione da questo punto di vista, perché negli ultimi anni è cresciuto molto e oggi da solo vale quasi mezzo miliardo di euro online verso il consumatore finale. È tipicamente uno di quei settori dove la disintermediazione poi non è completa, perché come hai detto tu giustamente, io compro lo pneumatico, anzi tipicamente due o quattro pneumatici, e poi non me li so installare, quindi devo per forza farli recapitare da un gommista che in qualche modo li installa. Quindi tutto sommato è un esempio in cui la disintermediazione non avviene in maniera totale grazie all'e-commerce. Però è indubbio che una delle ragioni per cui lo pneumatico viene acquistato online è il prezzo, perché rispetto al ricarico del gommista in officina, online si spuntano decisamente dei prezzi migliori. In seconda battuta anche lì c'è la gamma, perché posso scegliere tra una varietà di gomme che altrimenti dal singolo gommista non potrei trovare. Certo. E devo dire che però nel settore dei ricambi va molto bene anche quello che tu hai chiamato l'e-commerce B2B, nel senso che il commercio elettronico è molto utilizzato anche a supporto delle relazioni che ci sono tra il gommista e il distributore, oppure tra il distributore, il ricambista e il gommista. È uno dei settori dove si sente la esigenza, la pressione, no, di utilizzare gli strumenti elettronici, perché magari non proprio per le gomme, ma se prendiamo i ricambi auto in generale, che l'auto è un prodotto molto molto complesso, fatto da tantissimi pezzi, e scegliere tipicamente il pezzo giusto per il modello dell'auto non è un'operazione facile nemmeno per il meccanico, perché oggi i modelli dell'auto sono molto molto diversi e avere la certezza di ordinare il pezzo giusto non è semplice. Quindi ecco che una piattaforma web dove ci sono tutte le distinte basi delle diverse automobili in circolazione consente al meccanico o al ricambista di ordinare esattamente il certo. pezzo giusto. Quindi la tecnologia gioca un ruolo rilevante. E che peso ha l'e-commerce in questo settore, cioè nel B2B? Allora, se quindi dall'e-commerce verso il consumatore finale ci spostiamo all'e-commerce tra imprese che abbiamo chiamato business to business, ecco che la penetrazione lì è superiore al 10%, quindi è più alta rispetto all'e-commerce business to consumer. Però anche lì siamo ancora su livelli bassi. Attenzione che quando parliamo di e-commerce tra imprese non necessariamente parliamo di e-commerce fatto attraverso siti internet o attraverso applicazioni. Cambiano anche le tecnologie che sono molto più vecchio, se volete, molto meno innovative da un certo punto di vista. Però anche questo è un settore in cui c'è spazio per innovare, per molte opportunità. Assolutamente sì, c'è spazio per innovare, c'è spazio per incrementare i volumi scambiati, c'è spazio per inventarsi nuove soluzioni che sappiano supportare nuovi processi, soprattutto quelli collaborativi tra imprese, per aiutare le intere filiere a gestire meglio la domanda finale, avendo un passaggio di informazione sempre più chiaro, preciso e puntuale, a beneficio di tutti. Certo, maggiore efficienza, maggiore precisione, minori errori, magari anche tecnologie che fanno delle previsioni, che capiscono da quello che succede magari nella mia azienda partner, che fra 10 minuti ti cominciano a mancare alcuni prodotti e quindi io te li mando. Esattamente, e se tutto questo lo vediamo integrato davvero lungo tutta la filiera fino ad arrivare al consumatore finale, se riusciamo a prevedere la domanda del consumatore finale in base al comportamento manifestato dal consumatore finale, ad esempio su un sito internet, a seconda del numero di pagine che vede, di quali prodotti guarda, di quante persone guardano quel prodotto in una certa area, ecco che io riesco anche a spostare la merce in maniera predittiva in posti diversi a seconda della domanda attesa. Ci sono potenzialmente delle aree di sviluppo che sono pazzesche. Questo che stai dicendo è bellissimo, ma sta già avvenendo o no? Cioè, stiamo parlando di cose che succederanno tra qualche anno, quando ci saranno più dati a disposizione. Allora, sono cose che oggi avvengono molto molto raramente, abbiamo solo qualche caso di eccellenza che sta provando a farlo, e per fare questo servono tanti dati, ovviamente, perché maggiore è il numero di dati, maggiore è l'affidabilità statistica delle previsioni, e quindi in questo caso sono avvantaggiati i grandi operatori che hanno una mole di dati significativa, che poi però devono essere anche capaci di analizzare, perché si parla molto spesso di big data, ma magari si hanno questi big data, si hanno questi questi dati in grandissime quantità, ma poi non si ha la capacità di analizzarli, questo è il grande problema adesso. Sì, sì, io comincio a chiamarli very big data, perché cominciano a essere molto grandi. Senti, anche per concludere, facciamo un accenno, visto che siamo all'interno di un programma che si occupa di tecnologia. Se parliamo di tecnologie, che tipo di trend avete visto nell'e-commerce che vi hanno interessato? Ma allora, abbiamo osservato l'adozione di diverse nuove tecnologie, nuove soluzioni in diverse parti, in qualche modo, del percorso di acquisto. Partiamo in qualche modo dalla tecnologia che viene usata in ambito marketing per riportare il cliente sempre a provare a chiudere un acquisto che magari aveva lasciato in sospeso, monitorando i suoi percorsi di navigazione attraverso dei cookie che vengono messi evidentemente sul suo PC o sul suo smartphone, per non perdere mai un cliente che aveva mostrato interesse nei confronti di un prodotto, e magari poi suggerirgli anche degli sconti o dei prodotti alternativi. Ecco, tutto questo è un esempio di applicazione della tecnologia, anche basata, lasciatemi dire, su big data in questo caso, per non perdere mai il cliente. Abbiamo poi la tecnologia nella fase di pagamento, se penso all'utilizzo di meccanismi biometrici come il pagamento attraverso l'impronta digitale, che su uno smartphone per esempio è molto molto comoda e mi evita di digitare il numero della carta di credito che se non è già sul mio account quando faccio l'acquisto da un certo operatore, difficilmente vado a digitare su uno smartphone, perché è molto scomodo. Lì c'è proprio l'immediatezza in qualche modo dell'acquisto. E poi abbiamo anche tutta l'assistenza nell'ambito, diciamo così, post vendita, o tutte le volte che un cliente vuole chiedere delle informazioni attraverso i chatbot, attraverso l'intelligenza artificiale, che sono capaci di interagire con un potenziale consumatore anche senza nessun aiuto umano dall'altra parte. Quindi tutta l'interazione avviene in maniera automatica, e questo genera dei benefici in termini di efficienza molto molto significativi per chi li usa. Siamo ancora agli albori per quanto riguarda... Avete già visto dei servizi che funzionano? Sì, abbiamo già visto dei servizi che funzionano. Gli esempi migliori ce li abbiamo in questo momento nell'ambito della telefonia, per esempio, dove c'è le compagnie telefoniche. Un operatore che non è un operatore, dove c'è una macchina che mi risponde, dove c'è un operatore che chatta con me, ma l'operatore in realtà non è un uomo, ma evidentemente una macchina. Bene, io ringrazio Riccardo Mangiaracino per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Bentornati, riprende 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Io sono Enrico Pagliarini, ci trovate il venerdì sera, domenica tra le 13 e le 14, e come sempre anche online attraverso il nostro sito internet oppure la nostra applicazione, o anche attraverso le tante applicazioni che permettono di ascoltare programmi in podcast. Il nostro lo abbiamo ribattezzato Super Podcast, perché 2024 mette in podcast tutte le interviste in versione integrale. Ci sono un paio di notizie che riguardano i servizi di condivisione nell'area di Milano in questo caso, ma ci fanno capire da che parte tira il vento dell'innovazione, della tecnologia. Allora, da questo fine settimana parte un nuovo servizio di scooter sharing elettrico. Va detto che Roma da questo punto di vista è più avanti di Milano, perché ne esistono già alcuni da tempo, se parliamo di scooter. Però in generale Milano può essere ritenuta la capitale dei servizi di sharing, car sharing, bike sharing, scooter sharing, eccetera eccetera. Tra l'altro, dal punto di vista della tecnologia, se uno avesse tempo potrebbe iscriversi ad alcuni servizi e venirli a provare a Milano, perché non tutti sono disponibili in tutte le città. Una sorta di turismo dell'innovazione, turismo della tecnologia. Comunque, venendo alla notizia di questa settimana, il servizio viene lanciato da una startup che si chiama Mi Moto, e ripeto, da questo punto di vista Roma ha già dimostrato una certa dinamicità per quanto riguarda gli scooter. A Milano in un primo momento saranno 100 scooter, si arriverà nel giro di poche settimane, alcuni mesi, a 500. Il servizio si basa su scooter elettrici di un'azienda italiana che fa prodotti eccellenti, la Ascol di Vicenza, la Ascol con la K, azienda che da tempo produce, si occupa di motori elettrici, quindi da lì a fare scooter o biciclette e chissà, forse in futuro anche auto elettriche, il passo è molto veloce. Secondo gli esperti, gli scooter della Ascol sono scooter di qualità, non come i tanti scooter cinesi elettrici. Sapete che in Cina c'è un boom degli scooter che sono nelle città, sono praticamente tutti elettrici, mentre in Italia da questo punto di vista siamo un po' più indietro, cioè la maggior parte degli scooter non sono elettrici. Allora, l'altra notizia che riguarda invece il car sharing, quindi le auto condivise, c'è una società che si occupa di questo business che si chiama E-Vai, che fa parte del gruppo Ferrovie Nord, che è poi Trenitalia, sperimenterà un servizio di car sharing a domicilio in alcuni comuni dell'Interland milanese per andare all'aeroporto di Malpensa. Allora, come funziona? Una prenota, l'auto viene portata al domicilio e per 39 euro uno può utilizzarla per raggiungere il Terminal 1 dell'aeroporto di Milano Malpensa, dove poi c'è un parcheggio dedicato, quindi uno molla l'auto lì e va a prendere l'aeroplano. Il servizio partirà in via sperimentale il 16 ottobre, si protrarrà fino al 15 gennaio prossimo, ma è appunto un servizio sperimentale. Ci sono solo 5 auto, 3 elettriche e 2 auto tradizionali. Vedremo come funzionerà, però è un'idea su come la tecnologia ci permette di utilizzare anche questo tipo di servizi. È un'evoluzione e una novità in questo mercato. David Orban, bentornato a 2024. Grazie Enrico. David Orban, lo ricordiamo, insegna alla Singularity University negli Stati Uniti e ovviamente anche membro parte del chapter italiano della Singularity University, che tra l'altro da poco ha tenuto il summit, quindi l'evento principale dell'anno. David Orban è anche managing partner di Network Society Ventures. Dunque David, in questa puntata vogliamo parlare di intelligenza artificiale. Ti faccio subito una domanda sulle aspettative, perché si parla molto di sistemi di intelligenza artificiale, già oggi vediamo alcune applicazioni, ma forse c'è troppa aspettativa. Alcune cose che si speravano arrivassero già oggi arriveranno sicuramente non fra 5 anni, non fra 10, ma magari fra 1, 2, 3 anni. È la natura delle tecnologie esponenziali, quello di poter magari anche deludere inizialmente perché il loro progresso è quasi impercettibile e addirittura un progresso lineare potrebbe dare risultati superiori. Ma c'è un momento di passaggio dove i valori cumulativi diventano dirompenti. Ed è allora che parliamo di internet, che prima viene usato solo in ambito accademico e poi improvvisamente da miliardi di persone, oppure le prestazioni dell'intelligenza artificiale, che tutti riconoscono che le premesse erano vere, solo bisognava aspettare. Aspettare un po'. Senti, si parla spesso di intelligenza artificiale pensando al software, dando quasi per scontato che tutto ciò accada senza particolare attenzione all'hardware. Cioè, diciamo, l'hardware lo diamo per scontato, il cloud, questi sistemi di grande calcolo che sono centralizzati, che vengono utilizzati in cloud, ci sono, esistono. Il vero valore dell'intelligenza artificiale risiede nel software. Le cose poi in realtà non sono proprio così. Identificherei 3 componenti che vanno a braccetto, formano proprio un'unità importante: hardware, software e i dati su cui questi due devono agire. E in effetti i nostri processori vengono disegnati dal software. Gli ingegneri non usano carta e matita presso Intel per progettare la prossima generazione di processori, e l'intelligenza artificiale è intimamente coinvolta anche lì, perché milioni, decine di milioni o addirittura miliardi di componenti non possono che essere tracciati disegnandoli in modo super intelligente all'interno dell'area piccolissima del chip che poi viene realizzato. Quindi la interazione è forte. Spesso succede che un algoritmo particolarmente avanzato abbia bisogno di un hardware altrettanto particolare per poter essere eseguito efficacemente, altrimenti devi aspettare giorni o anni che ci sia il risultato e ti passa la voglia. Certo. Ecco, noi ne parliamo perché stanno succedendo delle cose, cioè pensando agli investimenti che ci sono in intelligenza artificiale, le più grosse aziende, nomi che conosciamo, stanno investendo pesantemente nell'hardware. Uno potrebbe pensare, no, investono nel software, negli algoritmi. No. Allora, o comunque non solo. Quando tu pensi di aver imbroccato la strada giusta su un particolare tipo di approccio, allora vale la pena di tornare indietro e chiederti, ma non è che posso ottimizzare l'hardware per l'esecuzione di questo algoritmo? Ed è quello che sta succedendo oggi. I sistemi di apprendimento automatico da parte dei nostri computer, il cosiddetto machine learning, negli ultimi 3-4 anni ha avuto dei risultati così strabilianti da sorprendere anche gli esperti. Nvidia con i loro recenti annunci dei processori Volta, Google con quello che chiamano Tensor Processing Unit, Apple che ha annunciato recentemente il proprio Neural Engine, e ARM infine, che è un produttore particolare che disegna solo i chip ma non li realizza, e ognuno va in questa direzione, crea dei coprocessori di intelligenza artificiale. E questa cosa è accaduta anche negli anni 90, quando Intel lanciava il l'8386 o l'8486, che era la CPU di quegli anni, e non era ancora possibile integrare funzioni matematiche avanzate. Allora, se tu avevi AutoCAD per il disegno architettonico, dovevi per forza popolare un alloggiamento sulla scheda madre del tuo computer con un altro processore, l'8387 o l'8487 dell'epoca, che era il coprocessore matematico che poteva svolgere queste funzioni. E oggi i coprocessori di intelligenza artificiale sono questi processori dedicati a questa nuova serie di funzioni. Per far cosa? Cioè per aumentare quali capacità delle macchine? Se vogliamo esprimerci in termini molto astratti, che poi magari cercheremo di rendere concreti attraverso degli esempi, è per capire il mondo in contesto. Negli anni 50, quando il software che nutriva i cervelli elettronici era rappresentato dalle schede perforate, i computer non solo erano parecchi ignoranti sul mondo, ma addirittura la sera quando li spegnevi dimenticavano tutto. E il giorno dopo riaprivano gli occhi sull'universo e partivano da zero. Oggi invece siamo in grado di rivolgere l'attenzione dei nostri computer, dei nostri telefoni cellulari sul mondo che li circonda, e questi cominciano a capirlo veramente bene. Certo, e giorno dopo giorno imparano e migliorano le proprie conoscenze. Qualche esempio concreto di quello che sta succedendo. Partiamo per esempio dall'udito. Uh-huh. Noi oggi cominciamo a parlare ai nostri computer, non solo per fare delle interrogazioni, e Google dice che già negli Stati Uniti sui cellulari il 40% delle ricerche avviene a voce, ma sempre di più parliamo con gli assistenti digitali. E allora Siri di Apple, certo, fa una battuta per nascondere la propria ignoranza se non ha capito quello che vogliamo, ma questo non va molto a lungo. E se vogliono Apple o Google o altri che noi continuiamo a usare questi assistenti digitali, devono effettivamente capire che vogliamo fissare un appuntamento e che quell'appuntamento è in quella data città, in quel ristorante, con quell'amico, che l'amico potrebbe essere avvisato attraverso un'email o un SMS, e prendere tutte queste decisioni che si mappano perfettamente alla nostra vita, così come interpretata da loro. E un altro esempio, su un altro senso, potrebbe essere quello della vista. Noi facciamo tante fotografie, le carichiamo negli archivi online, e mentre qualche anno fa potevamo ambire ad etichettare queste fotografie per dove le abbiamo scattate, chi c'è sulla foto, eccetera, certo. Nei miei archivi oggi ci sono 200.000 foto, è impossibile che io spenda la mia vita a far questo. E lo infatti fa la macchina. Non ce n'è più bisogno, perché Google Photos non solo legge i metadati della fotografia, che banalmente dice quando è stata scattata la foto e dove, e alcuni elementi tecnici su apertura del diaframma o quant'altro, ma è in grado di guardare dentro la fotografia un po' come faremmo noi e vedere che c'è un cane, che c'è un gatto, che ci sono delle persone, eccetera. E io posso interrogare, la mia interrogazione quando faccio vedere ai miei amici questa capacità oggi preferita è: due persone che sorridono sulla spiaggia al tramonto, ed escono le fotografie che corrispondono a questo, ed è una cosa veramente oggi risulta strabiliante. Un altro esempio super importante, super attuale relativamente alla vista, sono sistemi dedicati alla guida autonoma. Certo. Che non guardano più e interpretano un'immagine statica, ma una visione dinamica del mondo, delle telecamere che circondano la macchina che va sulla strada, e devono capire dove la strada, quali sono i segnali stradali, che c'è un pedone o un ciclista, e mille altre cose quasi istantaneamente. E per fare questo, queste aziende ci stanno dicendo che serve un'unità di calcolo dedicata e molto più efficaci di quelle che conosciamo oggi. Magari in futuro questo sarà integrato, certo, all'interno delle CPU non sarà più separato. Oggi lo riconosciamo ed è un momento molto importante, perché le persone possono prevedere come vorranno utilizzare queste nuove funzionalità. Magari invece di chiamarli coprocessori di intelligenza artificiale, potremmo volerli chiamare copiloti di intelligenza artificiale. Copiloti di che cosa? Di come vivremo e lavoreremo nel futuro. Quando eravamo nel Medioevo, una famiglia contadina viveva e moriva di quello che tirava fuori dai campi a fatica, e si potevano tranquillamente permettere di né leggere né scrivere. Nell'epoca industriale del XX secolo era molto difficile che nei paesi a reddito medio-alto qualcuno si proponesse sul mercato del lavoro senza poter leggere o scrivere. Un'iniziativa incredibilmente importante in Italia negli anni 50 e 60 è stata quella della alfabetizzazione delle persone, che ha, secondo me, contribuito radicalmente ad arricchire la nazione e a portarla ai livelli in cui si trova oggi. Sì. Negli anni 80 e 90 è diventato importante saper usare il personal computer, e chi allora si vantava di non volerlo nemmeno toccare magari si sorprendeva del fatto che la sua impiegabilità diminuiva, e certo, che non era possibile proporsi ad un lavoro di qualunque tipo, di dirigente o di impiegato che fosse, senza saper usare il computer. Domani noi ci troveremo a convivere con le intelligenze artificiali, e sapere come mantenere il nostro valore economico all'interno della società dipenderà dalla nostra capacità di essere complementari ad esse, nella nostra creatività, nella nostra passione, nella nostra empatia, nella nostra nel nostro desiderio di strutturare iniziative ed allocare risorse in modo che vadano a vantaggio di persone, di esseri umani, di gruppi di persone. E quindi saperli usare al meglio sarà essenziale per essere utili nella civiltà del XXI secolo. Ma da un certo punto di vista questo non è però un piccolo fallimento dell'intelligenza artificiale? Cioè, se noi umani dobbiamo già oggi, ma dovremo in futuro avere delle competenze per interagire, mi viene da pensare che, cioè, io spererei che nei prossimi anni le macchine ci aiutino ad avere più competenze senza uno sforzo ulteriore da parte nostra. Cioè, oggi mi è chiaro, oggi effettivamente dobbiamo conoscere più cose perché le macchine sono poco intelligenti, i software sono poco intelligenti. Allora, il mio messaggio non è che l'intelligenza artificiale sarà limitata e che quindi noi dovremo adattarci. E già adesso è evidente che da una fase iniziale, l'esempio è quello dei programmi di riconoscimento vocale che avevano bisogno di un addestramento anche lungo e tedioso prima di poter scrivere quello che dettavamo, mentre oggi tu spacchetti un cellulare, lo accendi e cominci a dettare tranquillamente, sì, sì, senza nessuna fase di addestramento. Quindi questo avverrà come dici tu. Ci saranno anche altri elementi che vanno nella direzione che dici tu. Oggi i miei figli, spero i figli di ognuno di noi o magari anche noi stessi, abbiamo delle reazioni quasi pavloviane. Quando c'è qualcosa che non sappiamo, sappiamo che non c'è bisogno di non saperlo. Andiamo su Wikipedia, o addirittura per le attività operative la reazione è: vediamo se c'è un video che spiega come si fa su YouTube. È vero. Certo. E lo si fa subito. E quindi, quando parlo di affiancarci all'intelligenza artificiale, farci affiancare dall'intelligenza artificiale, quello che intendo è che ci saranno delle reazioni naturali che svilupperemo in futuro quando qualcuno dirà: facciamo un'azienda, pianifichiamo una nuova città, colonizziamo Marte, progettiamo una nave interstellare, non saremo soli a sbatterci la testa contro problemi complicatissimi, a riproporci e a ricommettere errori evitabili, ma viaggeremo sulle spalle di giganti umani del passato come Galileo, Newton, Einstein o Elon Musk, ma viaggeremo sulle spalle anche di giganti intellettuali e cognitivi del presente, le intelligenze artificiali, che ci aiuteranno e ci affiancheranno nel raggiungere questi obiettivi enormemente entusiasmanti ma anche complessi del futuro. Bene, Davide, grazie per essere stato con noi. Buon lavoro, a presto. Grazie. Prima di concludere questa puntata di 2024, una breve considerazione sul mondo blockchain. Sapete che blockchain è questo registro mondiale, questo registro distribuito, immodificabile, indelebile di informazioni. La blockchain più nota e più famosa è quella che è nata e sta alla base dell'estrazione dei bitcoin. Non esistono bitcoin senza blockchain. E con questo tipo di registro si possono fare tante cose. Ad esempio, una delle attività che si possono già fare oggi, ma che si spera si potranno fare sempre più in futuro, basandosi sulla blockchain dei bitcoin, e la creazione dei cosiddetti smart contract, quindi contratti, un contratto potrebbe essere anche una compravendita o comunque qualsiasi altro tipo di contratto basato su blockchain. Visto che blockchain è pubblica, immodificabile, ci sono le caratteristiche di base per creare un servizio a supporto di contratti. Allora, ci sono due notizie della settimana che alle quali accenno per dire che molti stanno lavorando a cose simili al principio del blockchain, ma non necessariamente usano blockchain, e si fa molta confusione. Diciamo che si usa la parola blockchain un po' per dire: guardate come siamo moderni e come siamo fighi, no? Allora, la prima notizia riguarda SIA, che è una società assolutamente d'eccellenza nel mondo della finanza, ha fatto un sacco di servizi a partire dal Bancomat, ha progettato e realizzato una nuova piattaforma denominata SIA Chain per supportare istituzioni finanziarie o aziende o anche pubbliche amministrazioni per sviluppare in modalità sicura e protetta applicazioni basate su tecnologia blockchain. Ma anche in questo caso, appunto, stiamo parlando di una catena simile alla blockchain famosa e nota per i bitcoin, ma non è quella lì. Quindi si usa questa parola per dire che si fa una cosa simile. Poi bisogna andare a vedere, a studiare, a capire bene se le caratteristiche tecniche sono le stesse. Allora, il notariato ha presentato un progetto per realizzare Notar Chain, ovvero una blockchain nella quale le informazioni non siano gestite da soggetti anonimi, ma dai notai italiani. Anche qui si usa il termine blockchain, ma non è la blockchain dei bitcoin che può essere utilizzata. Si fa una cosa simile, cioè si prende spunto dalla blockchain e si realizza un software che più o meno fa le stesse cose. Poi bisogna andare a studiare il più o meno. Però giusto per dirvi che queste cose sono complesse, complicate, e visto che molti oggi usano la parola blockchain, poi tutti credono che venga utilizzata la blockchain vera, quella dei bitcoin. Invece non è così, ma lo si capisce solo se uno studia. E purtroppo, questo lo dico anche per molte aziende, bisogna dotarsi di competenze all'interno, perché poi quando ti vengono a vendere un prodotto, pensate al cloud, ci sono aziende che vendono prodotti facendo credere alle aziende che con il cloud si risolve tutto, e non è esattamente così. Alcune cose è giusto farle in cloud, altre cose non è mica detto che è bene farle in cloud, forse è meglio di no. Bisogna studiare, capire, comprendere per avere gli strumenti per poi reagire alle informazioni che vengono date. chiudiamo questa puntata di 2024 dopo questa serie di considerazioni che speriamo abbiate compreso fino in fondo. Io vi saluto, vi ringrazio, ci risentiamo la prossima settimana.